E siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori, riparte dunque per la seconda parte della trasmissione, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Città del Capo. E noi 451 stasera abbiamo costruito questa sorta di trasmissione sinistra e inquietante per mettervi in agitazione ancora di più rispetto all'agitazione che può venirvi dal non lavoro, dal lavoro del lunedì, per cui abbiamo costruito proprio un tema proprio molto rassicurante prima di andare a dormire. Noi cioè proprio ci sguazziamo dentro suoni e visioni sinistre, per cui veramente non ci fa quasi paura nessuno, forse ci fa più paura più quello che non viene definito sinistro, inquietante, etichettato in questa maniera, ma rassicurante piuttosto che invece la dimensione del genere. Diciamo che tra gli integrati e apocalittici stiamo sicuramente coi secondi. Coi secondi, ma in tutti i sensi proprio. Comunque la trasmissione stasera l'abbiamo intitolata 451 Sinister, prendendo il titolo anche da uno splendido lavoro uscito proprio a fine 2012 di Derrickson, regista giovane molto interessante nella scena e nella dimensione del cinema, definiamolo horror, ma sono diciamo definizioni abbastanza limitate, esce anche da questo tipo di catalogazione. Da lì abbiamo fatto un percorso nella prima parte attraversando gli Ulver, formazione scandinava proveniente da black metal ma attraversante atmosfere molto più variegate, per arrivare a Borzum, a personaggio Borzum, non mi vuole entrare in te, c'è il circo Barnum che mi, secondo me è causato dalla partot che devono fare, che ogni volta mi inquieta. E poi la chiusura è di Dijkstra, perché sei poco partot, perché sono poco frecchettone, tu sei per poc, per poc, sei un po' elite, non, sì, elite non per poc, doc duck. Va bene, abbiamo chiuso con The Dark Star e abbiamo aperto la seconda parte con questo splendido lavoro che qualcuno forse avrà riconosciuto, anche perché il film era piuttosto famoso, è stato piuttosto famoso alla fine degli anni 80 e fine per tutti gli anni 90. Si tratta di un vero e proprio capolavoro del regista Shinya Tsukamoto, famosissimo film Tetsuo, conosciuto anche come Tetsuo The Iron Man, e appunto un film che rappresentava la dimensione orrorifica dentro oltretutto un ulteriore quadro fantascientifico, creando appunto una dimensione piuttosto sperimentale sia nelle riprese che nella narrazione. Abbiamo cercato di vedere alcune recensioni, fa anche un po' ridere alcune descrizioni quasi appunto del film che cercano di dare un filo logico, un nesso, in realtà è un vero e proprio incubo misto a una sorta di visione, e dunque è anche un po' difficile costruire un piano narrativo di un film così sperimentale. E anche la colonna sonora era piuttosto ricercata, abbiamo ascoltato proprio un brano tratto dalla colonna sonora che era stata diciamo curata da un altro ottimo compositore giapponese che ha lavorato molto sulle colonne sonore non solo di questo film ma anche di altri film importanti, e si chiama Chu Ishikawa, è appunto un brano tratto dalla colonna sonora di Tetsuo, una dimensione oltretutto quella di Tetsuo che fondamentalmente cerca di rappresentare questa sorta di mutazione, di trasformazione dell'umano e di commistione con la macchina e con dunque con elementi meccanici, e con questa dimensione appunto di macellazione organica e trasformazione tra metallo e elementi appunto organici ed umani. Un film che ogni volta noi consiglieremo di rivedere, soprattutto se uno si vuole fare del bene, ecco, e ridarsi anche una prospettiva futura, perché la metamorfosi sta dentro la logica del nuovo millennio, secondo me. Beh, certo, siamo per le metamorfosi, e come, non soltanto quelle kafkiane, quelle di Tsukamoto, ma ovviamente e quelle sociali, insomma, quello sicuramente. Ma d'altronde poi già in Tetsuo insomma si intravedeva la storia fondamentalmente di un lavoratore iperalienato che appunto assorbiva tutto il metallo trasformandosi appunto in Iron Man, no? e con questo pene gigantesco metallico, sì, poi sì. C'era che diventava questa sorta tipo di trapano, sì, questa sorta di penetrazione dentro la carne, sì, anche sì. L'autoflagellazione. Una sorta di appunto di vabbè, adesso sto facendo io la lettura. Stai facendo tu la narrazione. Vabbè, no, guardatelo perché e basta. Infatti è un chi non l'ha visto poi, perché infatti, ce ne sono ancora culto. Tante. Tetsuo, lo trovate, tranquilli. Lo trovate su adesso internet. Si trova tutto. Si trova tutto, anche noi ci possiamo ritrovare. Ma noi insomma, ogni tanto ci perdiamo, se no poi non si capisce. Spesso ci perdiamo. Chi si è perso definitivamente, ma non abbiamo perso la musica, anche se fatemi togliere un sassolino dalla scarpa, dallo scarpone, perché insomma qua di sassolini veramente ne stanno, si stanno accrescendo dentro questa scarpa, parlando di Coil, è veramente una cosa ignominiosa e anche una porcheria commerciale veramente inaudita, purtroppo poi neanche tanto inaudita, visto che altre formazioni hanno avuto purtroppo questa triste sorte di vedere un bagarinaggio assurdo del loro materiale. Per fortuna si riesce a scaricare la musica a sto punto, veramente una volta tanto è di utilità avere questa abnorme insomma anche surplus informativo, ma in questo caso insomma con Coil, se no veramente saremmo alla follia come tante volte è successo. Beh, pensiamo ad esempio a un personaggio come la Monte Young, dischi quotatissimi, certo. Impossibile da trovare. Per fortuna insomma nel corso degli anni insomma abbiamo avuto modo di ascoltarlo appunto attraverso la rete, con Coil, vabbè, a parte questa triste vicenda che poi tra l'altro collima, guarda caso, anche con la tragica morte dei due, quindi pure tutto lo sciacallaggio che c'è dentro, da personaggi che volevano la metamorfosi sociale, quindi veramente triste il doppio, e veramente, come dire, mi viene veramente voglia anche di lanciare maledizioni nei confronti insomma di chi fa questi tristi affari, che veramente dovrebbero andarsene veramente a fare in culo, insomma. Così, lo dico, sì, Paolo, bella e buona. Questo tipo di sciacallaggio commerciale veramente ci fa piuttosto schifo. E comunque, andando a parlare poi di musica con Coil, si va a trovare quell'immaginario potente che poi viene sviluppato poi in Tetsuo, e con anche una così sortita che doveva portare alla colonna sonora di Arriser, poi la produzione bloccò il tema dei Coil, forse un po' troppo estremo per una pellicola che poi non era poi affatto leggerina. Il primo Arriser era insomma decisamente interessante anche lì sulla faccenda a mutazione, la carne e l'altro che si apre, l'alterità, appunto questo mondo fantastico sadomasochistico che si apriva attraverso questi cunei spazio-temporali. E Coil comunque disegnarono e hanno fatto di certo, insomma, hanno disegnato un immaginario orrorifico e non solo, anche sperimentale, ma i primi Coil soprattutto hanno buttato questa ombra musicale, sonora incredibile, che ha influenzato tutto il dark ambient, ma non solo, addirittura forse anche per certi aspetti il metal drone, sì, deve qualche cosa a loro, il grind addirittura dentro anche delle compilation alla fine degli anni 80, primi 90, si trovavano i Coil insieme a Napalm Death, per dire anche quell'immaginario che stava evolvendo, una vera e propria metamorfosi sonora, metafora della sperimentazione tout court di Coil, che li porterà al glitch, poi li porterà insomma a sonorizzazioni fantastiche anche nell'ultimo periodo, sempre con questa oscurità che non è comunque chiusa in se stessa, anzi porta decisamente lontano, anche con addirittura paesaggi cosmici. Ma tant'è che adesso ci andiamo a sentire Ors Rotorvator, disco del 1986, poco prima insomma che lavorassero proprio alla colonna sonora di R. Sunriser, e con questo pezzo proprio si, come dire, si condensa quella, quell'incredibile capacità di orrorificare di Coil la materia sonora. Yeah. persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. For the soul burns on, everlasting, encapsulated within infinite time. A thousand-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's. It is the night of the demon.

uno dei grandi dischi della dark industrial, dark ambient, difficile poi definire anche il genere forse creato da Lastmord, più l'attitudine scura che sicuramente troveremo ad esempio in una formazione che tra poco metteremo successiva a Lastmord, che è molto influenzata insomma da questo post industrial, si può definire tale, perché insomma Lastmord insieme appunto a Graham Revell e a certe sonorità anche di Coil aprì proprio un nuovo modo di intendere l'industria, chiudendolo, creando poi quel suono che diventerà isolazionista e poi con tutti gli sviluppi annessi e connessi a questo, arrivare fino al noise drone degli ultimi giorni americani, e quindi insomma come dire figura chiave di un immaginario horror che stasera stiamo indagando attraverso 451 Sinister. Sì, effettivamente è proprio così, infatti il prossimo progetto è un po' figlio di questo percorso sonoro, di questa esperienza, di queste sperimentazioni che abbiamo cercato di rappresentare attraverso uno dei capisaldi della sperimentazione, dell'industrial, del dark ambient come Lastmord. E si tratta di un progetto, anche qua andiamo a pescare, ci rispostiamo, diciamo, in terra di Germania, che mi sa che stasera fino ad ora è mancata ancora, sì, la Germania, Nord Europa, che insomma i tedeschi hanno un approccio abbastanza scuro anche alla dimensione horror. È molto raro trovare film horror tedeschi, ma quando, quello si, che trovano, so, sono, quando si trovano sono devastanti, veramente esperienze che superano, diciamo, i cliché dei film horror tipici americani da cassetta. Lì vai proprio, ma anche quelli dinamiche radicali, e anche quelli radicali vanno veramente tosti. E infatti andiamo in Germania, andiamo a pescare una formazione, un duo di Brema che si è praticamente costituito intorno al 1997, con un chiaro riferimento proprio a tutto il territorio, al terreno esplorato e quasi potremmo dire coltivato da Lastmord, cioè tutto il territorio del past industrial, del dark ambient, fino ad arrivare, dato che qua siamo oltre la metà degli anni 90, anche tutte le derivazioni ilbient ad esempio, o comunque queste dimensioni droniche estremamente scure, estremamente dark, con richiami ovviamente anche a sonorità e a immaginari industriali. Formazione di cui stiamo parlando sono i Traum, che in realtà facevano parte anche di un gruppo industriale del periodo finale dell'industriale, fine anni 80, inizio anni 90, e appunto queste caratteristiche si risentono. Mirror 3 forse, no? Sì, bravo, Mirror 3. Mirror 3, formazione non particolarmente conosciuta, ma che ha fatto uscire comunque alcuni album fino addirittura alla metà degli anni 90, ed erano praticamente loro che poi, insieme ad un altro personaggio, che poi alla fine appunto due soltanto dei tre dei Mirror 3 hanno costituito i Traum, che dal 97 hanno iniziato a produrre parecchi dischi, bisogna dire, ne hanno fatti veramente molti, e noi abbiamo pescato un disco del 1998, il terzo esattamente da quando si erano composti come Traum, intitolato Rina, dove appunto l'atmosfera, questo flusso sonoro dark industrial risente chiaramente degli echi e ovviamente degli immaginari connessi alle dimensioni sinistre, alle dimensioni orrorifiche, a dimensioni inquietanti, che stasera stiamo cercando di rappresentare attraverso questo percorso, che sicuramente non finirà qua, è un primo passaggio, è un primo frammento di qualcosa che sicuramente andremo, sì, di nuovo ad esplorare. Abbiamo veramente aperto delle porte. Le porte, non aprite quella porta, oppure anche insomma delle tombe potremmo aver aperto. Che qua di zombie reali ne girano tanti, questi invece sono zombie molto più vivi di quelli che sono vivi e che sono zombie. Sì, legati sicuramente alla mutazione. Alla mutazione. Thank you. myself out of my apartment. Too late. L'avete riconosciuto? Era il Resered di David Lynch insieme a Alan Splatt. Alan Splatt si occupava della sonorizzazione. Lynch comunque era dentro, insomma, dentro i suoi incubi, quindi, come dire, dirigeva le sonorità che tra l'altro fanno buona parte del film. Il film è di fatto una enorme colonna sonora, il suono è veramente quasi a volte superiore addirittura all'immagine. Se l'immagine non avesse questo potere incredibile che soprattutto il Lynch di Eraserhead ha avuto, vabbè, poi molte altre cose hanno portato Lynch a un immaginario non soltanto orrorifico, ma un immaginario deviante tout court, una delle cose veramente più pazzesche, la storia dei conigli, se vi capita di vederlo, è veramente una cosa che è una bomba psichica sul serio. Ma molte delle cose di Lynch, tra l'altro appunto Eraserhead è una caposcuola sia in termini di immaginari portati verso quasi una saturazione, questo bianco e nero che tante volte veramente si trasforma in nero per poi squarciarsi con questi momenti di luce accecante, disturbante. Tutto il film è legato a un disturbo sonoro, visivo, esistenziale, legato a questo personaggio post-atomico, di più questa industria di morte che aleggia in maniera apocalittica durante tutto il film, anche quando non c'è, anzi forse è ancora più forte quando proprio non c'è, viene semplicemente evocata da questi spazi chiusi ma anche pieni di fumi, di rimandi, insomma una meccanicità che sta dilaniando, insomma, e che prende di fatto corpo nel questo figlio deforme. Insomma, veramente qua di parole se ne potrebbero spendere tante per uno dei grandi capolavori del cinema mutante di sempre, Eraserhead appunto di Lynch, anche con sonorità anche qua che hanno influenzato moltissimo industrial, moltissimo immaginario concretista appunto legato al noise, all'ambiente più scuro, eccetera. E se andiamo, e questa è la parte insomma più storica, così che andiamo insomma ad affrontare, già affrontate insomma con Lynch e Alan Splatt con Eraserhead, sicuramente andiamo a trovare il maestro del brivido, che magari per tanti aspetti non è tanto conosciuto per il lato sperimentale. In realtà tra l'altro riduce da Nodo alla gola, film assai sperimentale del grande maestro inglese. Sperimentò anche tra l'altro con la musica e con un grande compositore di musica contemporanea. Eh sì, parliamo ovviamente di Alfred Hitchcock. Giustamente Max ha appena citato un film veramente considerato poi il più sperimentale di Hitchcock, Nodo alla gola, maestro del brivido, del thriller, ma anche forse di più, ecco, un grande regista che ha superato anche le etichettature dei generi, ma soprattutto le definizioni e una certa quasi predisposizione a incasellarlo dentro una sorta di personaggio estremamente variabile e incasellabile in qualsiasi contesto. In realtà Alfred Hitchcock, soprattutto in questo film che citeremo per la parte della colonna sonora, che poi in realtà è una colonna sonora molto particolare perché costituita totalmente su effetti sonori e su una vera e propria sonorizzazione da parte di Oscar Sala, che è il compositore appunto prima citato da Max, ma in realtà in Uccelli, il film Birds, uscito nel 1963, effettivamente Alfred Hitchcock supera ogni tipo di discorso legato ai generi, perché qua c'è veramente di tutto, si potrebbe inserire questo film all'interno della fantascienza, ma in realtà è anche un thriller, ma in realtà è anche una sperimentazione, forse anche una metafora di qualcos'altro. Hitchcock non dà né spiegazioni né soluzioni né anche prospettive, soprattutto alla fine del film. Dunque lascia aperto tutto, lascia aperto l'inizio, lascia aperta la narrazione, lascia aperto il finale. Dunque estremamente ricercato e sperimentale anche questo modo di costruire il cinema, e soprattutto sperimentale il fatto di, soprattutto per un film che poi è stato estremamente diffuso e l'hanno visto veramente cani e porci, capendoci forse pochi. Beh, forse quella è la forza. È quella la forza di Uccelli, così la declinazione in italiano di Birds in realtà è il titolo originale, ma la cosa veramente sperimentale è quella di far uscire un film per una grossa major che ha prodotto ovviamente questo capolavoro e costruire una colonna sonora che non c'è, nel senso che è completamente costruita su effetti e dunque su sonorizzazione. In questo senso entriamo proprio nella sperimentazione concretista, ma anche al di là del concretismo, perché la microfonazione dei vari suoni degli uccelli, molte volte manipolata, molte volte costruita appunto a livello elettronico, perché Oscar Sala, se qualcuno non lo conosce, è stato un compositore importantissimo del Novecento, nato nel 1910 a Graz, è morto a Berlino, oltretutto neanche moltissimo tempo fa, nel 2002, dunque anche a una età piuttosto avanzata, 92 anni, ed è stato un grande compositore e soprattutto un grande precursore della musica elettronica, e in questo proprio in questo lavoro specifico, in questa colonna costruita sonicamente per Alfred Hitchcock, ricordiamolo per il Trautonium, che era uno dei primi strumenti elettronici in assoluto. Il Trautonium in realtà è stato costruito, diciamo inventato, da Friedrich Trautwein, che appunto da lì nasce il nome Trautonium. Lui ha costruito il Mixture Trautonium, che è uno strumento ulteriore, una sorta di evoluzione di questo strumento che aveva costruito negli anni 30 il personaggio Friedrich Trautwein. E lui effettivamente, oltre ad essere stato un inventore, dunque un manipolatore anche di strumentazioni, è stato un grande compositore e soprattutto, e sentiamo le voci di questi bambini inquietanti, ma poi sentiremo gli uccelli. E effettivamente la genialità è costruire una colonna sonora costituita completamente su effetti, su una vera e propria sonorizzazione, microfonazione e manipolazione del suono. E lì è la genialità della costruzione anche della parte sonora di questo lavoro splendido di Hitchcock. Andiamocelo a questo punto a sentire, sentirete un sacco di uccelli, ma non solo.

un salto di 20 anni, l'elettronica stava cambiando, era cambiata decisamente rispetto anche a le splendide composizioni sul materiale appunto dei volatili, Birds di Hitchcock, per le musiche appunto di Oscar Sala, il grande Oscar Sala, grande compositore elettronico del Novecento. Siamo passati appunto con quasi uno scarto di 20 anni a un altro grande creatore di immagini assolutamente terrificanti, di scorci o addirittura squarci proprio su da psiche anche piuttosto insomma estremi, quelli di David Cronenberg, in questo caso Howard Shore, che nei primi film, tra cui appunto anche Videodrome storico, un film altrettanto visionario di Cronenberg, lavorava molto sulle elettroniche, più su i lavori d'archi, anche se già con Broad, film che dovrebbe essere fine anni 70. Sì, sempre intorno al 77, credo, 77 o 78 dovrebbe essere Broad. Sì, la covata malefica. 78. Già Broad lavorava con gli archi, anche se molto sintetizzati. Qua l'abbiamo sentiti, in effetti, però decisamente elettronici. Nel corso poi degli anni Howard Shore diventerà una figura chiave, un po' come Badalamenti per Lynch, e anche per Jonathan Demme, famoso poi per la colonna sonora anche decisamente più tra virgolette pop classica di Il Signore degli Anelli, o qualche d'uno Il Signore degli Agnelli, dice, no? Il Signore degli Agnelli. Però quelli sono tutti morti, quindi... ma mica tanto, adesso c'è il nipote che sta portando avanti quella bella roba insieme a Marchione. No, c'è proprio Andrea, c'è proprio Andrea che è il figlio di non di Gianni Agnelli, ma di Umberto Agnelli. Di Umberto Agnelli. L'altra invece, quella che se la poi non ho capito quella roba, quella non capisco chi siano questi Lapo Elkan, poi quella c'entrano l'altro è dinastie industriali. Ma sono le dinastie industriali, guarda. Vabbè. Però ci stanno facendo fare una vita noi che no, va bene, nel senso chiudiamo questa parentesi triste del capitalismo, va bene, italiano. Sì, okay. Sì, ma speriamo di chiudere per sempre, insomma, la parentesi di tutto il capitalismo, ma quelle altro che parentesi, insomma, no? Se sono parentesi, sono parentesi di graffie, anzi. Ma vabbè, tant'è che, insomma, tornando al discorso musicale, insomma, con Lynch chiaramente mettendo in mezzo Hitchcock e Cronenberg, abbiamo voluto, e chiaramente anche con riferimento al altro grande Tsukamoto, altro grande visionario del cinema, non soltanto orrorifico, chiaramente qua coi suoni orrorifici non abbiamo soltanto trattato, insomma, la classica sia iconografia e sia classico suono, insomma, legato all'horror, ma insomma un immaginario che comunque si può estendere, che va oltre, si fa quindi transgender di fatto. In effetti i maestri che abbiamo citato andavano oltre i generi, li utilizzavano per approfondire, insomma, discorsi loro, e tuttora, insomma, sia Cronenberg, forse più che Lynch sembra un po' perso nei meandri, ma chissà, prima o poi tornerà anche lui. Cronenberg è stato meraviglioso in Cosmopolis, uno dei grandi film degli ultimi anni, delle cose, le visioni più estreme che si possono commettere, che quelle sono veramente... Sono reati. Per il sistema sono reati, ecco, sono delle cose veramente terroristiche per il sistema, coi film. E abbiamo quindi quasi concluso, e concludiamo con una formazione che non ha bisogno di presentazioni, perché insomma nell'ambito di 451 frammenti sonori, anche se da un po' di tempo che non lo inseriamo in scaletta, però è passato questo gruppo, questo progetto splendido, prodotto e portato avanti in maniera piuttosto convinta dalla Warp Records. Parliamo di Boards of Canada, formazione che è da un po' che non fa uscire degli album, sì, nuovi. Purtroppo sì. Ha fatto delle compilazioni, un ultimo lavoro di qualche anno fa era un EP che recuperava un po' di materiali inediti, però come progetto è da un po' di tempo che non fa uscire un disco come originale Afex, nuovo, come Afex. Boards of Canada, che andiamo a pescare non a caso, perché un brano l'abbiamo proprio ascoltato dentro la parte finale del film Sinister, che ha dato appunto il là a questa trasmissione, ha dato questo input per costruire questo tipo di scaletta musicale e non solo. Appunto ci ha sorpreso moltissimo sentire appunto la parte finale del film questo brano tratto da Geogaddi o Geogaddi a seconda di come volete, uscito nel 2002, e abbiamo appunto voluto anche omaggiare ulteriormente il film che ci ha dato questo input, chiudendo, dunque aprendo con gli Ulver la trasmissione, chiudendo la trasmissione proprio con un brano che è proprio utilizzato nella colonna sonora del film che abbiamo appunto presentato, Aurora. Dunque andiamoci a sentire Boards of Canada e Aurora. Andiamo. Aurora è nuova. Aurora stupenda, dove è una pescata, cosa. No, è come una volta quando venivano intervistati dicevano: perché è vero? Ma è vero che non si utilizza più, vero? Sì, ci sono le famose paroline. Adesso va molto di moda. Piuttosto che. Tu invece sei per cui ultimamente. Per cui. Dopo dunque. Questa sera non l'ho utilizzato quasi mai. Però per cui. Per cui salutiamo. Vero? Vero. Io dico no. Ogni tanto intervallo. Ma quella c'è chi dice no, che è un po' triste. Sai che qualcuno l'ha citato? Qualcuno l'ha citato nelle battaglie politiche. C'è chi dice no. Sì, hanno utilizzato anche gli spari sopra. Ma lo sai, tra l'altro, che adesso sembra veramente un professorino della Munnezza. C'è chi dice no, il video. Io credo John Balance dei Lo so, infatti è inquietante anche questo. Però, ma la faccenda no, l'ho pure scoperta a distanza di anni. Continuiamo con questo aneddoto. Beh, lancialo. Praticamente Red Ronnie, che era amico di Vasco. Sì, di Vasco, e conosceva Trobbing Gristle, Coil, i vari post Trobbing Gristle. Chiese a John Balance di curare il video, sentì prima la musica, disse sì, vabbè, ma fa cacare, no, sì, insomma, è pop rock, non mi interessa, insomma, sì, in sostanza diceva faceva cacare, insomma, anche se qua Vasco Rossi non si tocca, lo sai, ragione, anche a Città del Capo immagino, sospetto, insomma, sia così. Comunque poi Red Ronnie disse no, aspetta che ti traduco il testo, perlomeno credo che sia andata così la faccenda. E poi disse: ma vabbè, il testo comunque va bene, perché comunque il testo poi sì, alla fine usciva l'anima un po' libertaria di Vasco Rossi. Sì, ma non se vai a leggerlo bene, non si capisce, cioè non dice niente. Ma perché è così Vasco Rossi? Perché Vasco Rossi dice delle butta lui. Delle robe lì a caso. Ma non si può parlare però di Vasco Rossi. Allora chiudiamo con invece una cosa seria: Boards of Canada. Anche perché tra poco vedrai cosa succede. Non voglio dire niente. Non diciamo niente perché porta fortuna in questo caso. Allora, Boards of Canada, appunto, come dicevamo, vuole essere, diciamo, il testamento di questa trasmissione per chiudere in bellezza, richiamando appunto questo brano inquietantissimo. Devo dire che in questo senso Derrickson, il regista di Sinister, è stato molto intelligente, perché ha chiuso proprio con un brano che già quando l'avevamo ascoltato in Geogaddi era inquietante, sì. Queste voci di questi bambini su una ritmica ripetuta, incalzante, martellante, e veramente inserito dentro quella scena finale del film è stato geniale, perché rappresentava perfettamente quel contesto visivo e anche rumoristico e sonoro che costituisce la linfa del film, che è molto più complesso di una semplice paura o di stato di tensione per l'effetto a sorpresa. Non c'è nessun effetto a sorpresa, non c'è nemmeno quella tensione costruita appunto da horror da cassetta, è qualcosa di molto più profondo e inquietante. Questo brano è stato assolutamente indovinato e non a caso, insomma, credo che questo regista sia anche da seguire, perché la scelta di personaggi come Ulver, Sanò e Birds of Canada dentro una colonna sonora, insomma, fa pensare bene. Gogad, infatti, vedetevi il film a questo punto, magari appunto a botta, a bomba, botta, a bomba, bomba, bomba non bomba. Bomba, allora, oppure venditi. Buonanotte. Ci risentiamo ovviamente, o ci vediamo se speriamo, volete. Guarda, non si sa mai, è vero, guarda, meglio non dire niente. Domenica per domenica viviamo la giornata, va bene. Ciao ciao.